5B. Ascolta e rispondi. 1. Che cosa direte a Leo? Gli diremo molte cose. A chi direte molte cose? Le diremo a Leo. Direte a Leo molte cose? Sì, gliele diremo. 2. Che cosa insegnerete agli studenti? Gli insegneremo nuove regole. A chi insegnerete nuove regole? Le insegneremo agli studenti. Insegnerete agli studenti nuove regole? Sì, gliele insegneremo. 3. Che cosa manderete agli amici? Gli manderemo molte cose. A chi manderete molte cose? Le manderemo agli amici. Manderete agli amici molte cose? Sì, gliele manderemo. 4. Che cosa porterete agli studenti? Gli porteremo le schede di iscrizione. A chi porterete le schede di iscrizione? Le porteremo agli studenti. Porterete agli studenti le schede di iscrizione? Sì, gliele porteremo.